sta succedendo di nuovo. È di nuovo il riverbero chiuso quando ti dico di aprire, che c'è il dramma della diretta di 100, c'è l'Avengers. Ma dove studi? Di Radio Forte! Incredibile, siamo di nuovo qui su Radio Forte, 100 celle Avengers. Questa è la quarta puntata in diretta, ma è la 19ª puntata di 100 celle Avengers. E sì, un po' di giubilo per questa cosa, ma soprattutto i più attenti si saranno accorti che ci siamo spostati al sabato. Incredibile, lo avevamo detto, ma soprattutto lo avevamo annunciato sui nostri affollatissimi canali Telegram. E quindi è successo, e soprattutto c'è questa dinamica un po' strana per cui oggi siamo anche più lunghi. Cioè, un po' come quando vai in vacanza a giugno, vai al campeggio e lo trovi ancora vuoto, quindi te puoi piazzare dove te pare, te rimani, ti sbraghi, fai la tenda qui, la tenda lì. E quindi noi siamo due ore insieme oggi. Non una, incredibile. Vabbè, ma già mi sono preso un quarto d'ora per dire questa cosa. Saluto la redazione tutta, un po' di coro. Ciao! Buonasera! Non si fa come ha fatto lei. Non si inizia a tradimento, sì. Così mi dici mi devo mettere verbero, hai capito? Perché non si fa. Allora, da adesso e per sempre, l'intro di 100 celle Avengers è questo momento di paura, di oddio, che succede? Che succede? Perché ormai la gente aspetta solo quello. L'importante, quindi... Daniele, è che tu dica Dio. Che comunque, cioè, si fidelizzano anche su queste cose le trasmissioni. Allora, che cosa abbiamo oggi? Un breve sommario così al fulmicotone di cosa succederà oggi che non è mai successo prima. Abbiamo la rubrica 100 celle Amarcord, cioè la rubrica che ci fa sentire come eravamo, anche detta su Rai Storia. Il collegamento più lungo del mondo, che è stato annunciato più e più volte e forse oggi avverrà. Forse. Poi abbiamo un collegamento con altre realtà del Forte Prenestino radiofoniche, Radio Sega Mentale. Poi abbiamo la prima, finalmente, della rubrica Assilli. Abbiamo la rubrica dei solisti, abbiamo la rubrica dei Beatles, abbiamo la rubrica della poesia. Ma forse vi sto spoilerando, abbiamo anche i cigni di Balacà. E un cane in diretta. E un cane in diretta, perché lo vogliamo mascotte. Dire, ditelo voi, dite voi come si fa a collegarsi con noi. Allora, praticamente il collegamento più lungo del mondo si fa tramite il cane, perché il cane porterà il cavo fuori e al dorso del cane ci sarà il nostro maestro Suano, che andrà a parlare tramite il cane. No, venite, sì, tutti su Gizzi! Io intendevo, esatto, quello che Virginia invece ha capito, cioè tu non dovevi spoilerare. Grazie. Il collegamento più lungo del mondo, ma dovevi dire quali sono le nostre coordinate radio, spazio, temporali, foniche e video anche. Però io me la immaginavo come sulla storia infinita sopra il cane, maestro. Mica le dice. Ho capito, ma qualcuno se le ricorda queste coordinate, ragazzi? Cioè, veramente, no? Music Forte Factory. Oh, che cos'è Music Forte Factory? Una stanza. Andate su Gizzi, www.gizzi.com, digitate la stanza Music Forte Factory e voilà, ci vedrete, soprattutto vedrete Iron Man, che è qui con noi. Il nostro amico. In modalità Gizzi. Ma lo vogliamo salutare. Immancabile. Questa era la voce dell'informazione. Infatti comincio dopo aver bullizzato Silly, quindi in un certo senso mi sento di averlo salutato. Salutiamo Gabri. Ciao. Ma soprattutto la professoressa Viola. Buonasera a tutti. Ma soprattutto Virginia. Sopra ciao. E poi vabbè, niente, c'è Silly. Ma soprattutto ci sono i nostri devices pronti a inebriarci con i loro commenti, sempre, diciamo... puntuali, esatto. Bravo, non ci hai messo. Rosa, chiedo scusa. Sì, adesso non è che devi parlare tutto insieme, Iron Man. Comunque salutiamo anche Iron Man, nonché Alexa, sì. Ciao ragazzi. Ciao belli. Che sono stati un po' bistrattati ultimamente, l'abbiamo già detto. Sembra come se, cioè, come se noi potessimo fare a meno di loro. Ma in realtà non è così, lo voglio dire. È soltanto che siamo talmente tanti qua, abbiamo talmente tanti contenuti che riproduco. Ecco, esatto. Io posso dire una cosa, visto che mi hai bullizzato dall'inizio? Prego. Io volevo ringraziare Iron Man per avermi aiutato nella rubrica, perché è grazie a lui che sono riuscito a farla. Grazie Iron Man. Iron Man è sempre senza parole. Non se l'aspettava neanche lui, forse. Lusingato. Comunque, io direi che prima di tuffarci in questa, non lo so, in questa inebriata di contenuti, potremmo ascoltarci qualcosa. Che siccome ho visto il cane dei Virgiani collegato al Sugizi, potrebbe essere qualcosa sul tema che Silvano aveva caricato la prima volta che gli dissi: oh Silly, fai una playlist, fai una roba. E lui, con Virginia avevano appena preso la piccola Ariel, che adesso non è più piccola. Quella ma bella, maestro, il cagnolino. Non lo so se questa la consideri quella bella. Io manco avevo capito che parlava del cane. Vabbè, comunque niente. Questi sono buchi di ignoranza che meglio non... Allora, ci dici esplorare. Qual è? Esplorare. Ma stai parlando degli Outcast? Stavo parlando proprio degli Outcast. Miss Jackson. Here goes out to all the babies, mamas, mamas, mamas, mamas, baby mamas, mamas. Yeah, go like this. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Drama, mama, don't like me. She doing things like having the boys come from her neighborhood to the studio trying to fight me. She need to get a piece of American Pie and take her bite out. That's my house. I disconnect the cable and turn the lights out and let her know her grandchild is a baby and not a paycheck. Private school, daycare, medical bills, I pay that. I love your mom and everything. See, I ain't the only one who lay down. She wanna rip you up and start a custody war. My lawyer, stay down. She never got a chance to hear my side of the story. We was divided. She had fish fries and cookouts for my child's birthday. I ain't invited, despite it. I show her the utmost respect when I fall through. All you do is defend that lady when I call you. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. King meets queen, then the puppy love thing. Together dream about that crib with the Goodyear swing. On the oak tree, I hope we feel like this forever. Forever, forever, ever, forever, ever. Forever never seems that long until you're grown. And notice that the day-by-day ruler can't be too wrong. Miss Jackson, my intentions were good. I wish I could become a magician to abracadabra all the sadder. Thoughts of me, thoughts of she, thoughts of he. Asking what happened to the feeling that her and me had. I pray so much about it, need some knee pads. It happened for a reason, one can't be mad. So know this, know that everything's cool. And yes, I will be present on the first day of school and graduation. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. Look at the way he treats me. Look at the way you treat me. Skillin' those homegirls and got assin' up the creek, G. Without a pad on, you left straddling right this thing on out. And the union girl ain't speaking no more, cause my d off and I'm out. I'm talking about jealousy, infidelity, can be cheating, beating, and the intro to the G, they be the same thing. But who you placing the blame on? You keep on singing that same song. Let bygones be bygones, you can go and get the hell on you and your mom. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. Apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, forte, 100 Cell Avenger è molto meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. E niente, c'è complicità in regia tra i fonici, praticamente. Non toccare questo mixer, allora, te lo posso dire? Ma no. Io mi dimentico che ci stanno sti stacchetti dopo, è quello. Allora, ogni volta che mettiamo una canzoncina, dopo c'è lo stacchetto per rientrare e tu non mi devi togliere il volume. Ma io stacchetto. Sono distratto dal mio cane che vedo qui. Ma questo stacchetto era dedicato al tuo cane, mannaggia, allora lo rimandiamo. Qualcuno lo rimetta! Niente, allora hai riabbassato. Lo rimandiamo? Rimandiamo, non ho fatto niente, lo rimandiamo? È molto meglio. Il ti odio. Radio è un pasticcio. Radio Forte, 100 Cell Avenger è molto meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. Cioè, c'era un impegno una volta. Poi vi vorrei anche dire cose che ho trovato nella cartella condivisa che ci eravamo creati con i ragazzi della scuola di musica, ai quali avevamo detto create stacchetti, io poi me la so scordata sta cartella, sono andata a rivedere, ci sono delle creazioni geniali che presto ascolteremo qui. No, ti prego. Ma parli di MD quanti? Vi dico che ne vale la pena, comunque non coinvolge nessuno dei presenti, quindi non vi preoccupate. Okay, non, allora non è il solito siluro che vi mando così a tradimento. È vero, grazie a chi, maestro? Grazie a Dio. Io. Hai tolto il riverbero su Dio. sì. Hai fatto grazie a... Vabbè. Comunque, niente, la fonia non è un'arte che si impara così in due secondi, ma Silvano ce la mette tutta. Il momento però è giunto, diciamo, dell'attualità, di parlare di qualcosa di... cioè, fondamentalmente, oltre che cazzeggiare per due ore, noi facciamo parte di una scuola di musica. E quindi di quello più o meno dovremmo cercare di parlare in maniera compiuta, conclusa, come dice l'avvocato. Qui alla mia sinistra. Quando dice che devi dire una cosa, dice che devi essere concluso. È a verbale? Sì, concluso, è un modo concluso. Di dire, per dire che non devi... Compiuto. Compiuto, ecco, sì. E quindi è con gioia che io annuncio che comunque questa cosa che conosciamo come 100 celle Amarcord, niente, tu hai deciso che oggi mi vuoi abbassare i contributi. Ma io non ho fatto... Ha chiesto scusa Iron Man per te, ma in realtà 100 celle a Marcor. Ok, questo volevamo dire che partiva. Grazie Silly, ai comandi c'è sempre a colorare i suoni Silly. Parte la rubrica che si occupa dei vecchi saggi, dei ricordi, del come eravamo appunto, del Rai Storia che siamo noi, 100 celle Avengers. E finalmente questa cosa ha una sigla. Solo che non la trovo, regà, ve lo dico, cioè io non ci vedo. Ma hai detto che c'era quella nuova? Hai ragione, l'ho trovata. Allora, i contributi sono aperti, Silvano? Sì, li hai aperti tu. Allora ascoltiamo la sigla che Alexa ha composto per 100 celle a Marcord. Ricordati di te com'eri prima. Un'estate fa, l'anno vecchio è finito ormai. Un'estate fa, ti ricordi? Un'estate fa, tutti quanti stiamo già aspettando. Un'estate fa, messaggio che è un nuovo anno. Mi ricordo che anni fa, un'estate fa, ricordati di me. E benvenuti alla rubrica 100 celle a Marcord, il saggio che non ricordavi di aver fatto. Che bella sigla. Dobbiamo fare il gioco di tutti i pezzi delle canzoni che sono in questa canzone. Grazie amici, siete troppo buoni, ma soprattutto siamo troppo seguiti da una schiera di artisti che... Un saluto da Luciano Ligabue, state ascoltando Radio Forte, questa è 100 celle Avengers. Che ci seguono e quindi che hanno contribuito, artisti riuniti, alla composizione della sigla. Ma in questo momento vedo che dal canale Gizzi, dalla piazza d'armi, incredibile, si collega della gente che noi andiamo a aprire senza sapere che cosa succederà. Oddio, è rotto tutto. Comunque, quello che vedo nello schermo non lo posso descrivere se non dicendo che... Ci sono degli amici qui con noi. L'immagine della madre fondatrice, padre fondatore di Radio Forte, Antonellina. Che ciao, non si, ecco, si è appunto ciao. Nascosta, la salutiamo. Sei in diretta su Radio Forte. Forte, Antonellina, dalla piazza d'armi. Si è frizzata. Con la quale ci era talmente felice che si è frizzata. Comunque ci stai succhiando la banda, poi va a finire che la diretta zompa perché ci stiamo... Vabbè, niente, scusate. Questi sono i potenti mezzi. Dicevamo che stiamo di Amarcord, quindi... andiamo a ripescare quello che fu il saggio, se non sbaglio, del 2019, dove eseguimmo la Carmen. Oh! Non è vero. Ma come la Si esibì la Carmen nelle vesti della nostra nuova Loredana Bertè. Siamo di nuovo su Radio Forte 100 Celle Avengers. Questo era il contributo della Carmen, che salutiamo. E a proposito di salutare, non abbiamo salutato la nostra Betta, che sta a casa quest'oggi. Ciao, ma Betta! Che non ha mancato. Ciao, Betty. Ciao, bella. Non ha mancato di mandare un contributo, poiché lei, come sappiamo, è una solista di spicco della scuola di musica, a mezzo sangue, perché poi sta pure con noi nella musica di insieme, ma Prezzemolina. Prezzemolina, diciamo ovunque. Allora, salutandola, noi vi mandiamo il suo contributo autopresentato. Ciao, amici di Radio Forte e di 100 Celle Avengers. Il Dio delle piccole cose è un pezzo tratto dall'unico album registrato in studio dal supergruppo composto da Fabi, Silvestri e Gazzè, il padrone della festa. Un album bellissimo, tra l'altro, ve lo consiglio tantissimo. Non ha avuto un successo enorme non essendo mai stato scelto come singolo, ma è un pezzo di una dolcezza infinita, che parla di piccole cose, di dettagli a cui nessuno fa caso e della tenerezza che questi dettagli possono nascondere, dei ricordi che portano con sé. Un bottone smarrito, un nome dimenticato, un respiro su un vetro su cui puoi disegnare qualcosa che scomparirà in un soffio. L'autore del testo, Gae Capitano, lo descrisse così. Mi è capitato in più occasioni di chiedermi e fare domande sulla figura di Dio. Ecco, mi chiedevo se davvero fosse così impegnata da non poter badare alle piccole cose delle persone. Da allora avevo ideato il Dio delle piccole cose inteso come un Dio che si occupa di quelle cose futili, ma che in realtà sono tra le più importanti della nostra vita. Sono i particolari che fanno la differenza. Ho immaginato la figura di un Dio che raccoglieva le piccole cose a cui non avevamo fatto caso nella vita in precedenza. Alle chitarre i grandi Silly e Riccardo, al missaggio Big Suano e alla voce Betta, che sarei io. Tranne se sentite qualche niente, allora non sono io, non c'ero e se c'ero dormivo. E soprattutto non lo dite alla maestra Serena. Il Dio delle piccole cose. One, two, three. Di Sara ricordi soltanto il vestito bianco e trasparente. Hai perso per strada il rossore e il sorriso di chi fa finta di niente. Chissà se qualcuno ha raccolto quei baci mai dati, i gesti invisibili come bottoni smarriti. Di Sara ricordi soltanto il vestito bianco e trasparente. Hai perso per strada il rossore e il sorriso di chi fa finta di niente. Chissà se qualcuno l'ha colto quell'attimo in cui le impazziva il cuore. Ci vuole fortuna, magia, un prestigiatore. Io spero che esista anche un Dio delle piccole cose, che sappia i silenzi mai diventati parole, che sappia i gradini di pietra, le stati scoscese, quel nome che hai proprio lì sulla lingua e non viene. Dio mostra le passi di danza che aveva sbagliato, conserva le foto in cui si era trovata per caso. Raccogli le briciole perse di ogni esistenza, i respiri sui vetri dei treni in partenza. Chissà se qualcuno sa dire i cognomi dei suoi compagni di scuola, poesie che non è mai riuscita a imparare a memoria. Se ha letto i romanzi che poi non abbiamo finito, le voglie che non sono più diventate peccato. Se sa le preghiere e i fantasmi di noi da bambini, o dov'è che finiscono chiavi e orecchini. Dio delle piccole cose aspetta la fine del cammino, con un sacco sgualcito dal tempo ed un piccolo inchino. Chissà se ci ride indietro le vite che abbiamo in sospeso. Io credo sia questo l'inferno, il paradiso. Thank you. bello sto stacchetto, ma chi era che cantava? Abu. E siamo di nuovo su Radio Forte 100 Celle Avengers, ma quante sigle ci abbiamo, talmente tante sigle e stacchetti che ci scordiamo di metterli. Quindi quella che abbiamo sentito era Betta per la rubrica dei solisti. Ma... io ci sarò con tutto il mio entusiasmo, un'altra storia. Dico, certo, lei si lamenta che io non gli riesco a scambiare le cose, ma lei mi manda le sigle così a tradimento. Ma è quello il lavoro del fonico, stare appresso al tradimento. Annaggia sto tradimento. Comunque, voi siete un tutt'uno. L'importante, ragazzi, è che non chiudi il canale, cioè fai come Biasci, apri tutto e... Fatto, fatto. Casomai andiamo per sottrazione. Comunque, questa appunto era la sigla dei solisti, che preannuncia il fatto che ne abbiamo un altro di pezzi dei solisti. E come abbiamo spesso sottolineato, salutiamo Katia! Salutiamo Katia dalla Piazza d'Armi, incredibile, in collegamento su Gizi, su Music Forte Factory. Nonostante il caldo. Nonostante il caldo, Katia ci, ci ascolta. Un saluto a tutti gli amici del pub. Ma c'è anche un pub animato, incredibile. Cioè, prima chiedevo, ma c'è nessuno? Non c'era nessuno, adesso siamo qui e non ci possiamo muovere, siamo tutti lì fuori a divertirsi. È un peccato che i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici non possano vedere quello che noi vediamo in questo momento. Perché qui siamo attrezzatissimi, cioè è una radio, abbiamo strumentazioni audio, video, di tutto, di tutto. Siamo veramente la multinazionale delle radio e... Oh no. E dicevamo che stiamo per ascoltare un altro pezzo proveniente dalla categoria dei solisti puro sangue. Chi cioè è questa volta? Questa volta è la stessa dell'altra volta. Non dovevi fare questa domanda, cioè stavo glissando il fatto che comunque abbiamo sempre Manuela, non Emanuela, Manuela, allieva della maestra Serena Locurzio, che salutiamo anche là. E e che si esibisce appunto in un pezzo che ha registrato negli... Salutiamo Sarina. Ehi, voi dal pub, portateci una birra. Portateci una birra, cioè vediamo tutta gente che beve. Noi siamo un po' a secco. Agli assetati. Dicevamo, registrato nella sala prove Forte Prenestino, in, diciamo, in modalità... come dire, post-prodotta, scusatemi, post-prodotta, quindi diciamo non diretta. Non sei più abituato, maestro. Non sono più abituato. Non si fanno più le cose ormai... in presenza ormai. No, era diciamo una modalità che ci doveva far sopravvivere. Adesso praticamente invece, siccome siamo rientrati in presenza, ma questa modalità è sopravvissuta, è una cosa in più in pratica, come tutto quello che è arrivato dal Covid. Va bene, comunque è anche un bene avere questi contributi da i studenti che non si fanno vedere a musica d'insieme. Questa è Manuela. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go home every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away this blue. Like a bird with da picco stringi come Big Jim. Radio forte, picco un player solo quando gioco a pasti notte. Centa c'è la range style. E siamo di nuovo in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers. Che cosa abbiamo sentito, Silly? Ma scusi, ma sbaglio o la canzone che abbiamo sentito cantata da questa ragazza Manuela è la stessa che durante una sua esibizione ha visto Stick chiedere il numero a una ragazza e poi alla fine applaudirla? O sbaglio? Allora un attimo, facciamo un po' di ordine per chi non dovesse conoscere Stick, non dovesse... Anzitutto Stick... Stai ascoltando Radio Forte e questo è 100 Celle Avengers. Salutiamo Stick, salutiamo Stick che è una delle nostre voci più amate della scuola di musica. Ci rende così autoreferenziali. La sua voce baritonale è stata la voce di The Babu, protagonista di molti dei nostri contributi post prodotti, ma soprattutto questa voce, questa stessa voce con un po' più di, cioè la rimetto diciamo ricalcava un po' la registrazione di un live che facemmo giù all'Enoteca, dove appunto il registratore era stato collocato vicino a stai ascoltando Radio Forte all'amico, questo è il 100 Celle Avengers Compers, cioè si sentiva un po' Nothing Compers, un po' vabbè, questo era quello che Silvano rievocava, per non essere autoreferenziali, perché qualcuno capisca a cosa ci riferiamo. È giusto. Questa invece che abbiamo sentito è una registrazione appunto di quelle fatte senza rientri, ecco, con modalità foniche, basta dire cazzate. E non era Stick che cantava, quindi? Assolutamente no. Okay. Non era Stick, ripeto, era Manuela, e che va a chiudere per oggi la rubrica dei solisti, senza che rimetto la sigla. Ero tentato, raga, ve lo dico, c'è una cosa per le sigle che un pochino... per stare più tranquillo con te stesso, per dare una chiocca, chiudiamo. Io ci sarò con tutto il mio entusiasmo, un'altra storia da vivere c'è. Ed erano i solisti che ci salutavano, e pensavo appunto a questo fatto della mania per le sigle, pensavo a quando la settimana scorsa dissi a Silly: oh grande, ho pensato a una sigla per la tua rubrica a Silly. E io cosa ti ho risposto? Non tanto cosa mi hai risposto, è lo sguardo, che purtroppo in radio non si può tradurre, però Silvano c'ha uno sguardo, cioè da che è una persona bonacciona, tranquilla, certe volte ti fa uno sguardo da matto che tu comunque ti fai un passo indietro, e quindi lì ho capito che Silly voleva pensarci lui, perché è un musicista d'altra parte, e la sigla se l'è fatta quindi da solo, giusto? Grande. Giusto. Sì. Ma ci vuoi parlare? Innanzitutto non sono da solo, perché c'è un basso registrato che non l'ho fatto io. Bravo, bravo che mi hai citata, grazie. Se no poi torno a casa e me mena. Sono aggressivissima, grazie di avermi citata. E detto questo, sì, abbiamo fatto questa sigla che inizialmente voleva essere una sigla tranquilla e partiva da una canzone molto tranquilla, però poi giustamente Virginia mi ha fatto notare: ma perché non la fai un po' più... Non è mai accaduto tutto ciò. Vabbè, ma fammi romanzare. Cioè, no. Ma vorresti dire che assomiglia un po' come marchio di fabbrica alla sigla che già conosciamo di Virgi? No, assolutamente no, non ci sono pezzi di altre canzoni, era una mia canzone su cui ho semplicemente... ma la metta, guarda. Bene, totalmente originale, andiamo a sentire la sigla di Assilli. Fatto grazie, male. Grazie. Questa è quella che mio padre definirebbe musica Ponzi. E ne approfitto per salutarlo, perché dovrebbe essere in ascolto. E quindi salutiamo Angelo. Ciao. Io avrei avuto un'idea per una nuova rubrica, la musica Ponzi, con una nuova sigla, ovviamente. No, scusate, niente. Ok, sempre di questa risma, comunque, questo tipo di sigle così... Queste tranquille, che se queste metti le cuffie... Allontana la cuffia prima che metto la sigla. Ok, la prossima volta lo sappiamo. Esatto. Comunque, Silly, ci vuoi parlare di cosa, cioè, che cosa sta per succedere dopo sta sigla? Allora, praticamente la settimana scorsa io avevo fatto questa intervista a questo gruppo e l'avevo missata, avevo fatto tutto e te l'avevo inviata, però purtroppo la tecnologia ha fatto sì che non la potessimo sentire. E quindi oggi finalmente possiamo sentire l'intervista agli Odd Roots, che sono il gruppo del nostro maestro del laboratorio. Ma vai lungo perché io ci metto un po' a trovare, non è che, cioè, dici un attimino chi è il nostro maestro, perché io sono una pippa con questo programma, come no, te al mix. Praticamente, allora, praticamente è successo, che bello, mi piace che non sono solo io la pippa, praticamente è successo che io ho intervistato il nostro maestro Alessio, che tra l'altro per essere intervistato non ha voluto venire da solo, ma ha portato il leader unico della band, tale Andrea, il sassofonista, e li abbiamo incontrati qui nella sala di Musica Forte. E abbiamo fatto questa intervista e è venuta fuori un'intervista molto lunga che ho dovuto molto tagliare per colpa dei tempi tecnici, non sapendo che oggi avremmo avuto 2 ore, giusto Virgi? Posso far notare che Silvano si dà del noi, come la regina. Perché Silvano rappresenta una redazione, la redazione di Assilli. Sì. Esatto, esatto, noi, infatti... Vabbè. Scusa, infatti c'è un inviato qui, non sei tu veramente, no? Tu stai no, in studio, non sono io. Io sto a studio e mando l'altro me stesso, perché ho un sosia che va a fare le interviste e ha anche la stessa identica voce. Ce ne sono due! E rompe le palle più di me, pensa. Tant'è che li ho fatto fare Assilli. Allora, mi dicono forse dalla regia che abbiamo il collegamento con perfetto. Assilli. Scusate se ci abbiamo messo soltanto mezz'ora. A un tuo gesto io scateno l'inferno. Prego. Di nuovo la sigla. Questa però era senza nulla. Buonasera, benvenuti ad Assilli. Oggi assilliamo gli Odd Roots. E abbiamo con noi Alessio, che è il... chitarrista, buonasera. E poi abbiamo il sassofonista Andrea. Allora, partiamo da una domanda abbastanza stupida. Io ho letto questo nome, Odd Roots. Odd Roots significa radici dispari o radici stupide. Strano. Chi è il matematico qua? Non c'è il matematico. In realtà noi il nostro, diciamo, quello che volevamo dire era radici strane, perché Odd è anche certo, strano certo. Quello strano un po' anche grottesco da un certo punto di vista, no? Ma la cosa divertente è che radici stupide, radici dispari, però fate reggae. Ma sì, si può definire reggae. Noi ci discostiamo un pochettino, quindi diciamo, se lo vuoi visualizzare, al contrario di un albero genealogico dove da un punto si diramano i rami, noi dalle nostre strane radici ci cerchiamo di ritrovare poi una sintesi fra il reggae e tutti. L'unico tronco. Quindi praticamente non veni da tutti da reggae, chiaramente. No. Tipo, tu cosa suonavi? Ma io, diciamo, ho avuto un'impostazione jazz. Mi piace il reggae e il gruppo all'inizio l'aveva addirittura pensato come un gruppo ska jazz. C'è per esempio il trombettista che magari a cui piace lo ska inglese, Tuton, lo ska dei Rude Boys. E poi ci sono tantissime, c'è la nostra cantante che te hai conosciuto, sì, tra sì, l'altro, no? Esatto. Anche lei viene invece più dal soul, dal jazz. E abbiamo Alessio, che è un eclettico musicista moderno. Facciamo parlare a lui. Allora, io di estrazione vengo da... cioè, penso che il mio stile chitarristico sia di base funk rock, rock blues. Però ho sempre ascoltato varia roba. Il reggae in particolar modo l'ho cominciato ad ascoltare da quando avevo tipo 10 anni, 11 anni. Questa in realtà è la prima situazione professionale, o comunque il primo gruppo serio del genere. Ma voi dove siete conosciuti? Sono stati un po' vari step, perché il gruppo è bello grosso, quindi sì, diciamo quante persone mancano? Mancano 6 persone, in realtà 7, perché anche il nostro fonico è parte integrante del gruppo, il nostro fonico da palco. Ve credo, tutti i fonici se no ve odiano, esatto. In 10 a suonare. Esatto, esatto, infatti l'accogliamo a lui, e meno male che ci sta, lo salutiamo, Francesco Passi, grazie. Io e Alessio in realtà ci siamo incontrati in fase, diciamo, di studio al St. Louis. E quindi là ci abbiamo avuto il primo contatto, poi però non abbiamo siamo completamente persi, fino a che poi il tastierista mi ha chiamato per un... serviva un chitarrista, ponendomi proprio sul piano: non so se tu ascolti il genere, non so se ti piace, però se ti può interessare. Ho detto a zì, calcola, io ci sto in vista da quando ho 11-12 anni, subito. E quindi poi mi sono presentato lì alle prime prove, e dovevo incontrare il leader della band, per l'appunto il qui presente. Quindi poi sono arrivato lì, ho visto un figuro nell'oscurità che stava aspettando palesemente qualcuno qualcosa, gli ho avvicinato e ho fatto: ma tu sei Andrea il sassofonista? Ho fatto: sì sì, tu sei Alessio. Poi l'ho guardato in faccia e ho detto: anzi, ma io ti conosco a te. Invece no, volevamo sapere un'altra cosa. Io ho visto che se vi cerco trovo il brano su Spotify e trovo una pagina di Facebook su cui non c'è scritto niente. Ma chi è che vi segue i social web? Chi dovevamo menare? Ci dovete menare tutti, perché siamo tutti impediti, evidentemente, perché non ci abbiamo un social media manager. Il che in realtà sarebbe... Speriamo di farlo noi fallendo palesemente, come si può capire. No, io seguendo la pagina Facebook ho scoperto quando era uscito il brano e... oggi, riandando sulla pagina Facebook, ho visto che l'8 esce un altro singolo. Allora, il prossimo singolo si chiama Oscar Mayer. Chi è Oscar Mayer? Si capirà poi a seguito dell'ascolto del singolo e si spera a seguito del videoclip. Questo prodotto verrà pubblicizzato in questo modo: ci sarà sia il singolo che uscirà l'8 che poi il videoclip a luglio, e verrà presentata questa figura di Oscar Mayer che ci si auspica che possa ritornare anche nelle future narrazioni del gruppo. Quindi non voglio anticipare nulla, voglio permettere a qualcuno che magari possa essere interessato di viversi l'esperienza così come l'abbiamo pensato. Il nostro tastierista aveva pensato a un'ambientazione tipo alla Kojima, non so se è presente, i videogiochi di Hideo Kojima e Metal Gear, e quindi lui ogni volta che lancia un nuovo prodotto fa queste presentazioni super criptiche in cui non si capisce che sta a fare, non si capisce niente. E noi abbiamo detto: facciamo pure i misteriosi, va? Ridendo e scherzando, chiaramente poi l'altra domanda che volevo fare era che abbiamo passato un periodo in cui non si è potuto suonare dal vivo. Voi che siete chiusi in studio e quindi avete approfittato di questo tempo come moltissimi gruppi, non avete paura, o paura è una parola magari un po' esagerata, della concorrenza in questo periodo? Perché chiaramente adesso si esce da questa fase, adesso si rinizia a suonare, quindi sono usciti un miliardo di dischi, tutte persone che avevano fermato le uscite dei propri dischi nel 2020 le hanno riprese. Mo, come vi ponete rispetto a questa cosa e soprattutto come vi ponete adesso su questa uscita dal Covid e quindi dalla possibilità finalmente di poter risuonare dal vivo? Ma penso che sia abbastanza tutto rapportato, nel senso, comunque, come c'è stato lo stop per noi l'abbiamo gestito in questo modo, che magari ci può avere un attimino tra virgolette danneggiato in termini promozionali, perché sicuramente per una situazione come la nostra che si rivolge ad un pubblico che è quello della musica live sicuramente penalizza. Ma alla fine la musica live comunque è abbastanza una costante, un valore per tutti quanti i generi, quindi in realtà è una penalità tra virgolette che hanno subito un po' tutti, quindi è abbastanza tutto proporzionale. Cioè, secondo me sarebbe stata la stessa identica cosa in situazioni diverse, in una misura diversa ovviamente, però con lo stesso rapporto. Potete dire che grazie a questo tempo potete aver lavorato meglio sul sound, come penso che abbiano fatto la maggior parte dei gruppi adesso? Io, ad esempio, ultimamente sto risentendo molta musica italiana e devo dire che quest'anno ci ha fatto bene, ma proprio bene, perché i dischi suonano molto meglio. Ti dico la mia idea personale, non so quanto è condivisa dal gruppo, però secondo me assolutamente sì. O almeno sicuramente per quanto riguarda la mia persona, sì. Cioè, nel senso, l'approccio che ho avuto è stato proprio di coltivare questo tipo di mentalità, proprio per riuscire a gestire al meglio magari le dinamiche nuove che si sono istituite con la situazione che è arrivata ed è stata più grande di noi comunque. Sono d'accordissimo su questa cosa. Penso che, come hai detto te, ha fatto bene un periodo di pausa, perché penso che uno dei problemi maggiori in generale del mercato artistico musicale in particolare sia anche un po' questa rincorsa eccessiva e questo bisogno di far vedere sempre la propria presenza e di rincorrere il prossimo prodotto. Quindi forse io avevo sperato all'inizio della pandemia che si potesse addirittura estendere a livello anche più economico-sociale una riflessione sulla pausa. Però sono d'accordissimo, perché in realtà noi in questo anno abbiamo avuto l'opportunità di lavorare, di confrontarci tantissimo, di costruire il nostro sound, e non avevamo appunto questa pressione e abbiamo potuto fare un passo indietro e prendere la situazione in prospettiva. Quindi penso che tutto il gruppo più o meno sia su questa posizione, sono abbastanza convinto. Ma poi immagino specialmente un gruppo come il vostro, 10 persone che si devono mettere d'accordo, si devono incontrare, devono suonare, poi dice: oh, dobbiamo fare questa serata, ah, ma ci serve un disco, perché col disco dobbiamo fare questa cosa. Alla fine i dischi si registrano di corsa, fino a non con la tranquillità di cui si ha la necessità per fare un buon lavoro. Senza questa frenesia sicuramente si è potuto gestire meglio questa cosa. Ma infatti comunque soprattutto gli ultimi due prodotti, sia Overbound che è uscito, e sia Oscar Mayer che uscirà a breve, dal mio punto di vista, e qui riprendo di nuovo la mia ottica personale, sono i migliori lavori che abbiamo affrontato insieme, proprio con distacco. In questa ottica il vostro fonico è anche colui che vi registra le cose o è solo il vostro fonico da palco? Allora, Francesco Passi, che ha citato prima Andrea, è il nostro fonico da palco ed il nostro fonico per le preproduzioni. Ci mette a disposizione spesso lo studio per poter delineare le idee anche da un punto di vista sonoro più specifico rispetto solo ad un punto di vista compositivo. E invece l'ingegnere del suono che ci fa la produzione definitiva invece è Andrea Saponara, presso il Polistudio Recording. Avendo avuto tutto questo tempo, vi siete scornati col vostro fonico? Allora, quella cosa bella di lavorare con ingegnere del suono che ha delle approfondite competenze musicali è proprio il fatto che molto spesso ha una visione esterna rispetto alle persone che comunque sono affezionate ad un lavoro e che l'hanno visto crescere. Quindi ti permette di dare un parere esterno sul prodotto, diciamo, finito o comunque addirittura d'arrivo, con consapevolezza. In particolar modo sull'ultima sessione, sulle registrazioni di Oscar Mayer, in realtà noi siamo arrivati in sala che non avevamo un'idea definita dell'arrangiamento. Ci mancavano ancora delle rifiniture. Ed è stata una salvezza, nel senso che comunque l'apporto di Andrea, il fatto di rivalutare il pezzo nella sua ottica anche dal nostro punto di vista lì in studio, secondo me ha fornito la ricetta perfetta. Io adesso vorrei andare verso la chiusura, diciamo, dell'intervista e chiedervi appunto i progetti. Che appuntamenti abbiamo? Noi ora stiamo, diciamo, facendo un lavoro con la nostra nuova etichetta Red Gold Green, che voglio assolutamente citare e ringraziare, con la Regione Lazio, perché abbiamo partecipato e abbiamo vinto, diciamo, la nostra categoria di Lazio Sound. Abbiamo altri progetti. Quando è successo? A febbraio. Stiamo facendo appunto il videoclip e abbiamo in mente altre collaborazioni, perché questo nuovo pezzo ci sarà una collaborazione inedita con un artista che è ancora... Solo da GEM. Io in realtà... La prospettiva è quella di fare un nostro album sicuramente, o comunque un, diciamo, siamo a tre pezzi, giusto? No, abbiamo cinque pezzi in realtà già prodotti. Abbiamo una scaletta un po' più, anche più lunga, con pezzi che ancora... Due sono stati prodotti in una live session, nel senso che sono stati registrati live. Dal punto di vista dei live, io spero che si riapra la situazione. Ovviamente noi siamo una band grande e quindi abbiamo bisogno di situazioni... Esatto, io sto vedendo che ora sta ripartendo qualche cosa, diciamo, partendo dal basso, cioè da tutte magari eventi più piccoli anche per necessità, e quindi spero che ci sarà sicuramente una cosa di cui sono sicuro, che è anche, diciamo, una cosa che possono pensare più persone, è che ci sarà una voglia incredibile di ritornare, una voglia anche, forse questo periodo d'astinenza dalla musica dal vivo ci ha fatto capire che la musica dal vivo e Spotify sono due cose diverse, come il cinema e Netflix sono due cose diverse. Uno si può godere una cosa, si può godere un'altra, però poi quando ti manca una, forse, io spero che la musica dal vivo manchi e sia mancata a tutti quanti. E a questo punto io vi lascio lanciare il vostro pezzo. Chi lo vuole lanciare? Lanciatelo insieme. E vi presentiamo il nostro ultimo pezzo. Un pezzo dal sound un po' retro, un po' sperimentale, un po' avant-garde, un po' di tutto, un po' strano, come siamo strani noi. E il nome è... Overbound. Grazie a Leo Druz. Down. quattro ragazzi su Radio Forte e queste 100 c'è la E siamo di nuovo in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers. Questo era Assilli, il rubricone. Eh sì, era Assilli post prodotto e inviato dopo. Perché praticamente... non lo dire con vergogna, abbiamo fatto circa 15 puntate tutte post prodotte e consegnate dopo. Adesso perché siamo in diretta subito montata la testa. Però sai cosa succede in questi casi, no? Che tu hai fatto questa intervista in cui loro presentavano un brano che doveva ancora uscire e nel frattempo è uscito l'8 di giugno. E oggi che giorno è? Oggi è il 19 giugno, sono le 17.59, incredibile, lo volevo dire proprio per dire, oh regà, mo in teoria doveva finire. E invece, siamo ancora qui. Cioè, ma mi piace questa cosa delle due ore spalmate, siamo lì, perdiamo tempo. Ma poi sabato, che bello. Mi sembra incredibile proprio. E comunque, sì, come ha detto Virgi, qua c'è un microclima invidiabile. La cosa buona di Radio Forte e del Forte in generale, questi 3 gradi in meno rispetto al resto del mondo. Un po' umido. C'è Grubbri a freddo. Comunque, prima che mi dimentico, salutiamo Giorgina, la voce. Giorgia, scusate, troppa confidenza. Giorgia, la allieva sempre della maestra Serena Locurzio, che si è esibita più volte sui nostri palchi, nei nostri saggi, portandosi brava. Appunto Yodrux, se non sbaglio. Sì, sì, a parte quella volta che ha suonato qui al Forte con noi, mi dispiace perché non ha suonato col suo batterista e il suo bassista, che a quanto pare sono molto forti, abbiamo sentito adesso. È vero, è vero. Mi ero scordato questo fatto che a Silvano toccò sostituire l'insostituibile batterista del gruppo. Sì, malissimo, a quanto pare. Cioè, però... Silvano si trova a suonare con gente del St. Louis, da che suonava con noi. Cioè, comunque l'ha affrontata bene, se è non stata ricordo una male. Bella esperienza, è stato veramente Silvia, bello suonare con la gente forte e sentirsi una pippa, è stato molto bello. Saluto al maestro Alessio forte. Ciao maestro. Un abbraccio forte. Che non vuole essere chiamato maestro. Ma qui al Forte fa il maestro della musica di insieme. E passiamo senza indugio alla rubrica che gestisce la nostra professoressa Viola. Ciao a tutti. Cosa sta per succedere? Sì, cosa sta per succedere? Manca la sigla, maestro. Aspetta, cioè, la io sigla? La sigla la lancio quando l'autore della rubrica dice adesso comincia la rubrica che si chiama Music and Poetry. E poi urla con sicurezza sigla! Sigla! Lasciatemi leggere. Sentire questa poesia, vorrei e non so leggere. Ho voglia di sentire questa poesia. E ringraziamo sempre il consorzio di cantanti che ci mandano sempre i file per fare le cose. Bellissima, prego. Bellissima questa sigla. E allora, oggi partiamo con la poesia per i bambini, i nostri amati bambini che ci hanno lasciato, cioè nel senso che è finita la scuola e quindi... è finita la scuola e io, ecco, piango anche io. Piango tantissimo e niente, quindi vorrei con questa poesia di Bruno Tognolini che è Filastrocca. Non lo conoscete, bambini, non fate finte. Infatti sì, qualsiasi nome dice di chi è questa alta poesia di Bruno Sbrati, sai. Grandi, la stessa cosa. I bambini leggono un sacco. Lo stesso esulto. Va bene, comunque, questa Filastrocca di giugno per augurargli appunto un inizio estate, che adesso diciamo non siamo ancora in estate, anche se, vabbè, non si direbbe, però se vogliamo essere precisi che inizia il 21 giugno, no? E, però... Sì, maestra. Brava, vedi? Studiato. E allora parto con la mia poesia, Filastrocca di giugno. Bambini a giugno, piedini a bagno, giorni di sogno col sole nel pugno, rondini in volo, caldo che torna, il sole in cielo alla coda e alla corna. Sole leone, luna leonessa, stelle corone di una principessa. Giorni più pieni, tu giocherai, giugno che vieni, non finire mai. Ma se finisci non mi rattristo perché ho capito questo. Se giugno è un sogno, quando mi sveglio poi viene il meglio, luglio! Incredibile, vi è piaciuta? Brava! Veramente un momento toccante per i bambini soprattutto. Ma come? Inizia la tanta abbiamo allora, in stagione. Portiamo solo i bimbi presi bene a questa rubrica, per favore, che qui già il soppalco è pieno di gente. Allora, sicuro non sono miei alunni, questi bimbi. Sicuro non sono miei alunni. No, guarda, non è che figlio poi, mio. Vabbè, poi indaghiamo, li cerchiamo gli alunni tuoi, li portiamo in trasmissione. Infatti, Comunque, allora, ecco, quindi... di botto è finito il momento, sì, subito serio. Adesso siamo seri. Torniamo seri. Dovremmo dare il tempo ai genitori di far andare via, sì, i bambini, perché... Adesso cambio anche voce alla Silly e mi impegnerò perché... Adesso Silly puoi anche metterci un po' di riverbero, ma poco. Sta per partire Music and Poetry adulti. Cazzo. Sì, oddio. E allora questa poesia in realtà non è una poesia, è un canto del nostro sommo poeta Dante. E diciamo, l'ho voluto citare perché quest'anno comunque a scuola abbiamo parlato tanto di Dante, dato che a marzo 2021 sono stati, diciamo, sono stati 700 anni dalla sua morte, e quindi diciamo ho portato questa parte di canto quinto dell'inferno, che però tratta diciamo un tema della lussuria, no? I lussuriosi, e quindi quest'amore tormentato e di questi due sì, Iron Man, lo so non che tu mi capisci, niente, poi col caldo con una parola fa capire tutto, sì, fa capire tutto, lui è sempre molto chiaro, poi con questo caldo, gli ormoni, ecco, e mi è caro questo canto perché mi ricorda anche un po' la fase adolescenziale di quando appunto al liceo, cioè è uno dei canti diciamo che è rimasto impresso un po' a tutti, credo, non lo so, sì, su, giusto? Sì, alunni, sì, alunni caro. Grandi, ma quei due che stavano lì, quei due poverini, diciamo, la storia d'amore per tanto. Sì, di Paolo e Francesca, e io ho portato ecco questi versi dove le spiega appunto questa sua tormenta, questo suo tormentato amore. Con questi versi strepitosi. Sì, strepitosi. Oserei dire, citando... Roberto Bini. Vabbè, ok. Ok, vado. Quindi questo è il sottofondo adeguato. Amor, cal cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, ca nulla amato amor perdona, mi prese del costui piacere sì forte, che come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende chi a vita ci spense, queste parole dall'or ci fuor porte. Wow! Ma come fa? Brividi. Ma quindi non tutto il canto. No. Ma era no. Strepitoso, c'erano delle parti strepitose. Perché strepitoso. Dante si rivolge a niente. Meno male, grazie. Tutto il canto. Adesso vorrei catapultarmi sul, non so, sul tavolo qua, fare una cosa alla Benigni. uscire pazza. No, però rimango composta da maestra quale sono. E niente. Questo anche è perché... il. Anche perché, se posso dire, cioè Benigni è riuscito a farlo talmente per tanto tempo, sì, da arrivare all'effetto controproducente. Cioè, prima avvicinava i ragazzi a Dante, dopodiché veramente se lo sentivo ancora dire una volta, cioè, strepitoso, questa cosa meravigliosa, cioè, me l'ha fatto andare su... Cioè, succede. Lo si eccede. Lo so, quando comunque, il troppo Roberto! Stoppia. Comunque salutiamolo, sì, che porta alto il nome di Dante. Che ci ascolta. Dell'Italia. E comunque ricordiamo... Basta il muso del tuo gatto o del tuo cane per sentirti una felicità lieve. Non dimentichiamo una felicità mai lieve. L'ABC della felicità. Un campo di girasoli sa illuminarti il volto, che il profumo della primavera ti sveglia dall'inverno. Okay. Sì, ok, ma gli ormoni di cui avevo parlato prima, cioè Fabio, sei troppo tranquillo, cioè qui sta arrivando l'estate, c'è tutto un fermento. Sentire una voce al telefono, ricevere un messaggio inaspettato, sono sì, piccoli okay. Attimi felici. Soprattutto il messaggio inaspettato a me niente. È un piccolo attimo felice. Sì, niente. Sì, sì. E forse non ci sono più uomini come Paolo. Uomini di una volta. Adesso abbiamo i Fabio e vabbè, è così va. Comunque chiediamo scusa ai Fabio in ascolto. No, per carità, cioè non è che e ai Paolo in ascolto. Ma questi giudizi sui nomi, maestra? No, no, no, ma non perché per i nomi. Cioè, io parlo in particolare di un Fabio e un Paolo. E avrei preferito Paolo, però Paolo non c'è. È andato via. Quindi, non c'ho mai più. Quindi a questo punto, bambini, fate uno stacchetto. così per ricordare che questa è 100 Celle Avengers sempre. Sì, la gioia in questi siamo flauti. Sempre noi. E quindi cosa succederà adesso? Cosa ci ascoltiamo? Mi date un consiglio? Ma guarda, visto che l'8 giugno era uscito quest'ultimo pezzo degli Odd Roots, questo perché non metterlo a questo punto, no? Visto che abbiamo fatto l'intervista prima. Oscar Mayer. Esatto. Ecco, stavo giusto dicendo, mi ricordate come si chiama? Certo. Oscar Mayer, no, perché poi è un titolo molto Oscar carino. Mayer su Radio Forte. Oh my god. You see that? You don't see that over there? That's Oscar. Oscar Mayer. Look at yourself. That's what it said. Oscar Mayer is watching you. He's really upset. Got him a time to go there and back. We must stay catching in this global mass distraction. We never escaping from the reality that we're shaping. It's so frustrating. You got a clue. Tell yourself a bit that you are more than a number. Tell yourself a bit that it's okay to be somber. Tell yourself a bit that you have nothing to prove. Can't survive this mess if you can move in on. Residuals, I became more spiritual. You must have sold your soul for the better good. I'm watching Avatar as it try to crack the code of life and shapes. I figure squares will triangle till they form up circles. Like Nostradamus, greatness my fate. Granted, I engrave these stones I smoke. I spit refined and polished gems, commend you cool, but don't be thinking now we all just friends. From hearts of men and men and mice, I learned it twice. Keep that same number every time I roll the dice. I moved the earth for twice the price they paid to cough my weed. Corona got me laughing nice. But now back to the strife. In my heart now, is it life? Don't scratch your head. Is it life? I keep it live. Teaching love. You gon' die in assault. Leaving your life a leeching slug. Don't be mad cause I'm fly when your ass is a bug. Ascoltando Radio Forte, tanto forte al punto che è 100 Celle Avengers. E siamo di nuovo in diretta su Radio Forte, 100 Celle Avengers, ma vediamo collegato sulla stanza Music Forte Factory un personaggio. Non so se vogliamo sperimentare addirittura il collegamento per la prima volta in diretta, come vada come vada. Io ho un'ansia della prestazione che levati. Eh sì, poi Papino papà. C'è Angelo connesso con noi in video, lo riusciamo a vedere. Lui è connesso direttamente da Cosenza. Ecco che le distanze si accorciano incredibilmente. Io credo che lui possa sentirci sicuramente dalla radio, ma non ma so se abbiamo non dei microfoni. Non sentiamo lui, quindi Quindi a meno che non sia un problema di mute sulla stanza Gizzi, che sarebbe bello spiegarci tutto in diretta così come, forse come si faceva una volta. Papà, devi prendere il telecomando al 5. Se c'è un'immagine con la vedi quell'icona dovresti... La vedi quell'icona con un microfono? Avvocato, se c'è davanti a lei un microfono con una sbarra sopra, lei lo prema per far sì che l'audio fluisca verso di noi. Qualora questo non dovesse avvenire, io comunque le manifesto tutta la mia stima. Sono un po' in ansia per questa cosa. Sì, siamo contentissimi. Sono tutti in fibrillazione qui. Sarebbe bello poter dialogare per accorciare ancora di più queste distanze. Vederci è già magnifico. Vederci è già strepitoso. Si senta libero comunque di intervenire qualora l'audio dovesse ripristinarsi. Io nel frattempo, per mettere un po' più di ansia alla situazione, farei sì che prendesse corpo quella rubrica che Al computer spento, niente, cioè è stato veramente tutto va bene, io sì mi aspettavo il collegamento più lungo del mondo cronometrato e al millimetro, invece il collegamento più lungo del mondo può aspettare. Se tu hai tutti i pezzi pronti io vado. Ecco, vedi, mi mette l'ansia. No, sono sicura che li hai. E allora partiamo con la terza puntata di questa splendida rubrica che si chiama? Si chiama I cigni di Balacà. Sigla. È scritto nel vento. Ma papà, ma non lo senti che è uguale ai cigni del Balacà? E rieccoci in studio per i cigni di Balacà. Prego, avvocato. Sì, siamo, alla nostra terza puntata di questa rubrica, la sottorubrica di 100 Cell Avengers, che si vuole occupare dei casi giudiziari di plagi musicali. Eh sì, perché noi qui quindi trattiamo di vicende di plagi o presunti tali che sono approdati in aule di tribunale, nell'aula del tribunale, e spesso anzi giungono fino all'ultimo sommo vaglio della Cassazione, quindi vale a dire fino al terzo grado, quindi non si fermano al primo, non si fermano al secondo, arrivano addirittura al terzo grado. Esattamente come una scala, la scala che ci ricorda che appunto queste vicende giudiziarie nascono, crescono, spesso vengono enfatizzate anche mediaticamente, e nel corso di 10-15 lunghi anni di cause e processi percorrono tutta la scala. E quindi tre gradi o gradini di giudizio che li conduce fino al paradiso. Madonna, che gancio. Questa è la scala verso il paradiso che ci hanno regalato i Led Zeppelin. E per alcuni, certo, si può dire che dopo che vinci una causa milionaria, e in terzo grado in effetti stai da Dio, i diritti sono tuoi, la canzone è tua e nessuno può più toccartela. E questo, guarda caso, è proprio quello che è accaduto nel caso di plagio di cui vogliamo parlare oggi e che ha coinvolto appunto i Led Zeppelin nella loro famosa hit Stairway to Heaven, che abbiamo appena ascoltato e che sentiamo ancora in sottofondo. Una vicenda giudiziaria iniziata nel 2014, anche più o meno recentemente, quando il fiduciario di Randy Wolf degli Spirit, un'altra nota band, rock band di quegli anni, si convinse che gli elementi chiave del brano Taurus, brano pubblicato nel 1968, fossero stati plagiati dai Led Zeppelin in Stairway to Heaven, appunto. E il riferimento in particolare è all'introduzione dei due brani, il noto arpeggio caratterizzato da questa peculiare sequenza di accordi arpeggiati, ascendenti e discendenti, che sono nella stessa tonalità di base. Mi confermi, maestro? Il La minore. Certo, ma poi la fai sempre tu con la chitarra. Io come no, sì. Che comunque anche musicista, ricordiamo l'avvocato, prego. E come sempre in musica, comunque sempre meglio ascoltare, quindi vi rimando anche all'ascolto del brano Taurus. A proposito della vicenda giudiziaria che si concluse comunque nel 2018, quando in appello sostanzialmente la Corte di San Francisco confermò il parere della giuria popolare sentenziando a favore dei Led Zeppelin, sostanzialmente escluse che ci fu un plagio. E il fatto che Jim Page avesse, che all'epoca dei fatti era 72enne, dei fatti giudiziari, avesse a casa sua l'album Taurus, non persuase i giudici che, diciamo, del fatto che l'ascolto eventualmente del brano da parte di Jimmy Page lo avesse poi indotto a copiare pedissequamente la canzone, il brano Taurus per l'appunto. Quindi questa vicenda giudiziaria si concluse bene per i Led Zeppelin, la storia del rock è salva ancora una volta. E per farci un'idea, comunque ricordiamo che è stato calcolato che con la sola Stairway to Heaven i Led Zeppelin abbiano, a vario titolo fra royalties, diritti di esecuzione e editing, abbiano guadagnato circa 500 milioni di dollari. Quindi se perdevano? Se perdevano erano cazzi, come si suol dire. Amari. A casa mia. E dicevamo quindi di questa scala che porta al paradiso. E per introdurre anche un altro argomento, perché se ti sei fatto i milioni grazie alle vendite dei dischi e il mercato discografico che tra anni 70 e 80 andava alla grande, ti domandi come potresti investire questi soldi: nel mattone, in azioni quotate in borsa? No, piuttosto te li giochi in qualcosa che ti appartiene, la musica appunto, comprando i diritti delle canzoni di qualcun altro. Quanto è vero, eh? E questo ci ricorda proprio quello che fece Michael Jackson. Ecco, Virginia subito che si scalda sulla sedia qui accanto a me. Già merode. È prontissima. Perché Michael Jackson, alla cui vicenda giudiziaria si ispira appunto il titolo della nostra rubrica, I cigni di Balaka, dopo una chiacchierata ispiratrice con l'amico Paul McCartney, che già aveva mosso i primi passi nel mondo della produzione discografica con l'acquisizione dei diritti d'autore dell'intero catalogo di Buddy Holly, pensate un po', e nel corso di questa chiacchierata, appunto, la leggenda vuole che lo stesso Paul McCartney suggerì all'amico Michael di investire i proventi delle vendite dei suoi dischi nella produzione dei brani di qualcun altro. Al che Michael avrebbe detto nel suo... Non so come investire i miei soldi. Hai un consiglio da darmi? Sì, Paul gli suggerì appunto di investire. E Paul gli disse: oh, non fare lo stupido. Vabbè, no, non era proprio stupido. Non fare lo stupido. Puoi investire in non nelle palazzine a Ostia, con i terreni di Ostia. No, te compri le canzoni appunto. E fu così che Michael si persuase ad acquistare tutto l'intero repertorio dei Beatles. E come sappiamo, per farne questo... che grazie, ecco, Michael senti, Jackson. E investire appunto i soldi che gli uscivano dalle orecchie fondamentalmente, ecco. E quindi e questa è una vicenda di cui poi ci parlerà, no, più sicure, diciamo, del mattone lag, no? Sono le canzoni, no, io non ne parlerò, dirò soltanto che un po' questa cosa ha bloccato poi l'uscita delle canzoni dei Beatles un po' nell'ambiente popolare, nel cinema, nelle pubblicità, ecco, questa cosa è stata un po' bloccata, sì. I Beatles non erano più di tutti, la grazie, famosa Michael. Catena dei diritti che spesso si interrompe e fa sì che nella produzione di opere splendide, bellissime, autoriali, parlo della musica ma anche di altri tipi di opere come anche generi letterari o le opere cinematografiche, spesso si interrompano, si perdano nel nulla, perché ahimè le case discografiche falliscono e le catene dei diritti non si ricostruiscono. Oppure quelli che si sono comprati muoiono. Sì, banalmente. Perché muoio. Michael comunque diciamo sembra che gli avesse detto: no, io faccio testamento, poi quando muoio ti ritorno tutti i canzoni a te. Sì. E invece sto testamento pare che è arrivato il tipo della Sony e non esiste, è tutto spamento. Le canzoni sono della Sony e mi dispiace Paul, devi parlare con noi. Eh sì, la Sony l'ha fatta da padrona e continua a farla da padrona. Accanto ai casi approdati nelle aule di tribunali, comunque vogliamo ricordare che c'è anche una matassa di roba musicale che viene presa, rimpastata, scopiazzata, mashuppata, come un po' naturale che sia, volendo citare Lawrence Lessig, fondatore delle Creative Commons Community, di cui parleremo magari la prossima puntata, e che tutta questa roba stuzzica l'orecchio dell'ascoltatore medio, che allora che fa? Si erge a giuria popolare, va quindi a caccia di plagi, si spinge alla ricerca di spesso argute somiglianze fra pezzi rock, fra pezzi pop, fra pezzi rock e pop, e che scova quindi il plagio, o ritiene di averlo scovato, perché riconosce nell'opera creativa di un artista, o meglio di un autore, la chiara ed evidente rielaborazione di qualcosa fatto da qualcun altro, che evidentemente lo ha ispirato, al quale dunque rendere un omaggio. un tributo, un un'attestazione di stima. E questo ti dà il là per introdurre. Più che là mi hai tolto tutte le parole di bocca, me ne riprendo qualcuna. Giusto, perché era una cosa di cui si parlava appunto dopo che Gabri ha deciso di fare questa rubrica. Si è aperto tutto un, perché comunque si parla sempre di musica, quindi ognuno c'aveva da dire la sua, sono venute fuori delle cose, ma perché non parli di questo, non parli di quello. E ecco, come dice appunto Gabri, poi il confine fra il prendere ispirazione, il rubare nel campo musicale è veramente labile. Allora, labile, sì. Per me, diciamo, nel caso mio, che ho l'ascoltatore una mia, medio, cioè, l'ascoltatore medio è una mia idea magari della musica, eccetera, eccetera, diciamo una piccola differenza la fa il dire grazie. Banalmente, nel senso, tu artista che trai ispirazione da un altro artista o da vari altri artisti, trovi il modo artistico magari di dire grazie. Poi se proprio non ci riesci artisticamente, ora spiego che intendo, lo fai in un'intervista dove dici in effetti i miei modelli sono Tizio, Caio, Sempronio, e quindi insomma non... sto parlando, pensando all'esempio appunto di cui mi facevo portatore, che era quello dei Muse nei confronti dei Queen, quindi una faccenda che si svolge tutta nell'isola. E, una isola. E che comunque sono andato subito a verificare, appunto risponde a uno di quei casi di omaggio, cioè di, come dire... A parte che si stimano e si conoscono personalmente, ma comunque la maniera in cui lo stile viene imitato non è tanto un modo di fregargli una cosa e pensare che l'arte non se ne accorgano, ma è proprio far dire proprio a tutti: oh, regà, Brian May ha fatto, cioè il chitarrista dei Queen, ha fatto delle robe talmente belle che per me sono diventate un, come dire, un cliché, una roba che io ripropongo musicalmente senza rischiare di essere appunto accusato di plagio. Perché se io per esempio vi dico: questi chi sono? Sembravano i Queen. E invece erano i Muse. Che bello. Cioè, per dire che comunque non è, cioè, l'ha detto pure nelle interviste, in questo nuovo album ci sono un sacco di Queen. Cioè, era proprio una roba reale. Comunque, quello che poi io poi sono andato a vedere è appunto una somiglianza che non è un... cioè, non corrisponde manco a mezza nota, ma c'è un richiamo dello stile. Allora, questa qui è Madness, che tutti conoscono come grande hit dei Muse. E dove già comunque, esatto, coralmente loro già fanno il loro piccolo omaggio. Dopodiché fanno il loro assolo, che richiama il cantato. E ce lo sentiamo tutto, perché tanto dura poco. Ora, quello che accadeva nella canzone dei Muse, grosso modo, accade anche in questa, nel senso che c'è un assolo che ripropone il cantato e che andiamo ad ascoltare, e che è il nostro esempio di omaggio di Matthew Bellamy verso Brian May, da chitarrista a chitarrista. Io non te copio manco una cosa, ma sta solo l'ho fatto perché tu hai fatto quell'altro. E è questo. E finisce qui questa... Ci sta. Questa mia arringa, non so se di accusa o di difesa o di... No, assolutamente lodevole. Assolutamente di amicizia, di rispetto, direi, no? Sì, un vero gruppi. Tributo. Ma pensiamo alle tribute band, insomma, nascono veramente con questo intento, e anche molto esplicito. Certo, fanno anche le cover, ma le tribute diciamo band fanno che proprio le cover. Fanno proprio le cover. Solo le cover. Va bene. Solo. Questa sono parte poi magari la seguiamo. Però diciamo no, che in ogni caso mi fa pensare che... che questi ci siano varie forme di tributi, ecco, mettiamola così. E questo è un evidente tributo, mi sembra di averlo riconosciuto nel riff dei Muse rispetto ai magnifici, strepitosi Queen. Quindi prometti di dare anche spazio a eventuali nuove istanze della redazione di Centocelle Avengers che ti sottoporrà dei microcasi? Assolutamente sì, fra le altre varie suggestion mi è stato per esempio portato alla mia attenzione la somiglianza, è veramente scioccante, ecco, sì, non si può negare, fra la sigla di Sailor Moon, pensate un po', e la magnifica Isla Bonita, di cui probabilmente abbiamo un estratto di Madonna. Secondo me non ce la faremo mai. Non ce la faremo mai, ma possiamo pensare di lanciarlo così inaspettatamente. Come il quiz della prossima settimana. Indovina dove Sailor Moon ha copiato Madonna. Va bene. Ma non era Madonna che aveva copiato Sailor Moon? No, raga, è venuta. E allora direi che passiamo oltre. Comunque sempre a suon di contributi chiusi. Ma è tutto aperto. Ma io voglio parlare di Sailor Moon adesso. Ma dovevamo parlare dei Beatles, Virgi. Hai ragione, è successo qualcosa di brutto. È successo qualcosa di brutto. Ma noi ci siamo ancora. Possiamo cantarle noi. Ora sì. Possiamo fare un po' di sottofondo musicale con le voci, un bel coro. Nel cristallo Sailor Moon. Chissà se il musicale funziona ancora. Eccolo. Secondo me no. Allora, nel frattempo io vi posso deliziare con un altro racconto, ma un certo, altro nota. Grazie. Anche perché così vorrei, insomma, lanciare il là alla nostra Virgi, appunto. Io volevo rimandare, ma va bene. Assolutamente no. Devi parlarci del tuo beniamino dei Fab Four. Ah, sì. Che è George Harrison, quindi parliamo di quella volta che George Harrison fu accusato di plagio mentre i tecnici cercano di riparare in vano. Ma sono fiduciosa. Voi continuate a braccio, dimostrateci che la radio è anche questo mentre noi stiamo piangendo. George. Nel frattempo, se Viola vuoi fare un po' la sotto, fare un po' di arredamento musicale, ecco. Quale la isola? Canticchia. Mettiamo un po' di riverbero. Benissimo. Riverberone. Sappiamo che... Abbassami un po' il riverbero, Silvio, per favore. Dopo lo scioglimento dei Beatles, George Harrison riuscì a dimostrare di poter essere un grande artista solista grazie al suo capolavoro My Sweet Lord, che a questo punto doveva partire, sì, vabbè, ma ne faremo a meno. Tanto la conosciamo tutti. Alleluia. Era quella? Esatto. Che è un po', come dire, la definiamo l'espressione più famosa della spiritualità di George Harrison. Il testo della canzone infatti è sia dolce e compiacente che molto provocatorio. Il pezzo parla in dettaglio del desiderio di George di essere vicino al mondo religioso e include diversi elogi cristiani e non solo. E potrebbe a tratti sembrare, anzi ha ricevuto anche critiche di blasfemia, ma in realtà non fu così. Nel frattempo continuo a sentire una voce... come se fossi in uno stadio ad urlare da solo. Chiediamo scusa a nome di Silly e di tutti i tecnici coinvolti in questo disastro. Ma non era colpa mia, si è rotta la macchina. Ha fatto un casino, che bello. Ed ecco che con la fantasia ci spostiamo. Come tra il sacro e il profano, ecco, passi niente. Esatto, no? Esatto. Povero Giorgio, sì, ne ha ricevuto di accuse. Come proprio l'accusa Santo. Che gli arrivò dagli Chiffons, che erano al tempo al culmine commerciale, il culmine del loro successo, e dunque in quegli anni sossero dei problemi a causa delle somiglianze fra la citata My Sweet Lord e il noto brano degli Chiffons, He's So Fine, che canticchieremo amabilmente. Probabilmente fa Alleluia, My Lord. Era un qualcosa di molto simile a My Lord. Ok. Ecco, vabbè. Sento della musica che torna. No, era tutta una finta. Era tutta una finta. Vabbè, il bello della diretta. Se non è bella questa. Però secondo me il riverbero ci stava bene, io insisto. Infatti sì, perché drammatizzava il momento. Che succede? Oddio. Io l'avevo detto, dobbiamo fare un'ora sola. Poi invece insiste, famo due ore. Ah, neanche questo è mai accaduto. Per un'ora ha funzionato tutto. Mannaggia. Vabbè, io posso andare avanti per ore a parlarvi di... vai, cioè, abbiamo una risorsa, sfruttiamola. Allora, senta, faccia una cosa. Mandi sulla pagina di Telegram o sulla pagina, sui nostri contatti, mandi tutte le canzoni che dovevamo sentire e che non abbiamo potuto sentire per questa discorso. Benissimo, sì. Per colpa tua, per caso. Così almeno indifferito. Eccola che torna, la musica. La musica! Oh mio Dio. Quindi adesso possiamo mettere le canzoni che diceva la maestra. Senza musica. La musica. Non cantiamo Vittoria così presto. Lo dico, cioè, continua a tenere botta, dai, sì, esatto, fare così. Continui. Ecco, mo già abbiamo migliorato la cosa. Vai tranquilla. Bene, allora io concludo dicendo che nel 1976 i giudici finalmente decretarono che George aveva, finalmente, ahimè, per povero George, decretarono che aveva involontariamente plagiato It's So Fine ed Harrison fu costretto a dare alcuni dei proventi del suo album All Things Must Pass e in più diede alla casa discografica e agli Chiffon il 75% dei soldi guadagnati da, da My Sweet Lord. A me scendono le lacrimucce nel frattempo. È una bella pacca di soldi per un totale di 1,6 milioni di dollari. Ora sappiamo perché George Harrison fu accusato di plagio. Incredibile, abbiamo ripristinato in un... in men che non si dica. Bravissimi ragazzi. Dove sono i bambini che piangono? Complimenti. Cioè veramente. Per la prontezza. Vogliamo quindi, i bambini che qual piangono. Qual era la canzone di George Harrison? Scusa Daniele. Piangevano. Piangevano, ok. Quindi cioè, direi che vi siete dati un grosso assist nel frattempo, cioè è forse provato. Arrivato il momento di parlare di qualcosa di simile a... Ah, per caso i Beatles? No, non dicevo tanto, no, io pensavo dovevamo parlare de... no, sì, dei Beatles, ok. Ah, ok. Allora, mi piace farti lo sgambetto continuamente, ma vuoi la sigla o facciamo tanto che tutto va male quindi manco la sigla? Io se ci fosse vorrei la sigla perché così possiamo rendere giustizia al povero George e parlare un po' di lui oggi. Bene, nella nostra nuova rubrica Fa Schifo. E devi dire anche? Sigla! Oh, eccoci qui, come mi piace ascoltare questa sigla. Allora, oggi faremo un lavoro, anzi farò un lavoro un po' diverso dal solito perché ci occuperemo della mia canzone preferita, non solo dei Beatles ma in generale, e del mio Beatle preferito, appunto, George Harrison. Quindi finalmente posso portare un po' del mio personalissimo punto di vista, no? Non lo faccio mai. Sei sempre così obiettiva. Mai. Che cavolo. Guardate, allora ci metterò un po' del mio. Se esagero, insomma, bloccatemi. Allora, iniziamo parlando brevemente di quanto George Harrison sia stato un creativo, considerando soprattutto i due mostri sacri con cui si trovava a lavorare, cioè Paul McCartney e John Lennon. Uno degli esempi che porto più spesso quando parlo appunto della creatività di George Harrison è una canzone del White Album, Piggies, che senza aver avuto bisogno di scendere nei particolari della musica indiana, che ricordiamo comunque fu portata ai Beatles e al pop proprio da George, che si innamorò di questo, diciamo, stile, chiamiamolo stile, dimostra quanto poco fosse influenzato l'estro creativo di George Harrison e quanto effettivamente rispetto agli altri due fosse indipendente. Questa è Piggies, una canzone dal forte contenuto sociale che purtroppo oggi è conosciuta soprattutto perché è stata una delle massime ispirazioni del famoso serial killer Charles Manson, per dire che comunque ebbe il suo effetto in un modo o nell'altro. E quindi se la regia è pronta e tutto è ripristinato, io ascolterei il brano Piggies. Have you seen the little piggies crawling in the dirt? And for all the little piggies life is getting worse. Always having dirt to play around in. Starched white shirts, you will find the dirt. Always have clean shirts to play around in. In the skies with all the backing away. Forks and knives to eat the bacon. One more time. Questo che era, scusa, Luigi? Questo è Piggy, sono i Piggy. No, dico il finale, il violoncello. No, ma adesso non sono mi chiede. Inciampati su un violoncello alla fine del pezzo. Vabbè, erano maiali. Ah, ok. Forse Madonna, era, l'ho fatto forse davvero. Era qualche amico indiano di Giorgio che suonava il violoncello. E niente, quindi durante la registrazione di questo brano invece nacque l'idea per Something, la canzone probabilmente più famosa di George Harrison, sia da solista sia con il suo gruppo, che partì subito con una cover, visto che prima di inciderla George la diede a Joe Cocker, che però la fece uscire dopo Abbey Road, l'album in cui si trova dei Beatles. Dopo Yesterday, Something è la loro canzone più coverizzata. Lo stesso Giorgio ci spiega perché, ovvero aveva creato una linea vocale per cui, diciamo, l'estensione riusciva a valorizzare qualsiasi cantante. Questo è il parere di George Harrison. Viene ricordato con un certo disappunto da Paul McCartney il commento di Frank Sinatra che la definì la miglior canzone di Lennon e McCartney, che poi comunque il disappunto l'avrebbe dovuto esprimere George, ma vabbè. L'attenzione di George a questa canzone la si nota anche in ciò che non lo riguardava direttamente, tanto che accadde l'impensabile. George disse a Paul come suonare il basso e ne venne fuori una delle linee di basso che è da annoverare nei capolavori della musica, per quanto mi riguarda, anche senza il resto della canzone. Oggi viene omaggiata da Paul McCartney nei suoi live, suonata all'ukulele, strumento a cui Harrison introdusse i Beatles, tanto per dirne un'altra. Nella sua carriera con i quattro sperimentò strumenti di altre culture, rendendo occidentalizzata la musica indiana e portando in studio una ricerca mirata di cose che lo rappresentavano in assoluto di più, con un'apertura mentale che nel gruppo per me non aveva eguali. Perché George rimase sempre il Beatle costretto a scrivere le proprie canzoni da solo, proponendole agli altri solo perché fossero sotto il loro giudizio, ma comunque contribuì a tutto quello che abbiamo oggi in egual misura, senza prendersene mai il merito. Un amico come Eric Clapton, più tecnicamente talentuoso, infatti venne inserito nelle sue canzoni. Un amico invece come Ringo, creativamente meno talentuoso, veniva aiutato in gruppo e come solista. E nonostante si prodigasse sempre per gli altri, non fece mai mistero di quanto in realtà ci odiasse tutti. Proprio come lei, maestra! Esatto, un po'. Adotta un Ringo. Un po' come me, sì. Infatti abbiamo davanti il misantropo più altruista della storia. Quindi adesso ci ascoltiamo con la formazione Silvano, Virgini e Suano, i famosi Fake Four, che poi sono tre, con la loro cover, anche loro, di Something. Madonna, ci sono i rumori reali. Attract me like no other lover. Something in the way she wooed me. I don't wanna leave her now. You know I believe in her. Eccoci, siamo rientrati in onda. Abbiamo un maestro con le cuffie e un microfono che sta tentando di fare la cosa più importante. Sta succedendo qualcosa di meraviglioso. Okay, adesso okay, forse ci sei. Quanti esperimenti in questa, quanti esperimenti in questa puntata, ragazzi? Cioè, troppo, troppo avvincente. Aiuto. Eccoci, eccoci, stiamo ancora provando. Qualcuno prova, ci guardi su Jitsi. Houston, abbiamo un problema. Siete la regia che tutti vorrebbero avere davvero. Sì. Vi voglio bene. Sì, sì. E questo era Flying dei Beatles, ovviamente. Cronaca di ciò che sta succedendo nella redazione di Centocelle Avengers. Sì. Abbiamo un collegamento. Il dramma digitale. Abbiamo provato, amici, a fare una cosa bellissima. Cosa è successo, maestro? Lo spieghi lei, che no, è un tecnico. No. No, quello che voglio dire è che ci siamo spinti oltre, che le tecniche che volevamo raggiungere quest'oggi, come si diceva nello spot anni 80, volevamo stupirvi con effetti speciali, non lo faremo, poiché già la prima dorsale del collegamento più lungo del mondo presentava una avaria. E ora, senza tediarvi spiegandovi cos'è un'avaria tecnica, soprattutto cosa volevamo fare noi, Monica. Andiamo diciamo a prendere il gancio da quanto detto poc'anzi riguardo agli investimenti musicali, tutta quella cosa, tutta quella pippa che attaccavo prima dicendo che mi stupiva questo fatto che, oddio, stava per cadere tutto. È caduto un tablet. Cioè, succede di tutto mentre io parlo. Che si potesse investire in quella maniera invece che nel mattone, nella canzone. E altrettanto diciamo stupore mi provoca il fatto, diciamo, che questa epoca che viviamo è contraddistinta da un altro tipo di investimento musicale, lo scioglimento e la reunion. Quindi quello che voglio dirvi in poche parole, ma non saranno poche, è che sta per nascere una nuova rubrica che non ha ancora una sigla, quindi non si può dire che è nata, perché se non hai una sigla non sei nessuno. Abbiamo visto non avrò problemi a mandarla. Non avrai problemi a mandarla, non avrò problemi io a dire sigla. Però il punto che sarà una rubrica che io propongo di chiamare Rise and Fall, riferita appunto a questa diciamo mania dello sciogliersi e del riunirsi che hanno i gruppi, ma soprattutto di farlo sapere con eventi mediatici nei quali si guadagnano praticamente più soldi che per tre quarti della loro carriera. Allora io dico l'investimento, seguitemi, la questione è: tu ti fai una carriera da musicista lineare, diciamo, con la sua ascesa, poi discesa, poi sei dimenticato, poi un po' più, oppure fai semplicemente il botto così, oh, se stiamo a sciogliere, vamo al super evento all'ultima volta, e ci guadagni, e poi fai la reunion, la gente si è scordata anche solo due anni dopo, e fai l'evento, cioè tramite questa cosa dell'evento si svolta di più che con una carriera. Questa è la mia teoria economica che ho portato agli studi del Massachusetts. Ma è assolutamente così. Sì, sono assolutamente d'accordo. Ma che comunque per oggi mi porta, lo fanno di proposito, dice una addetta del settore, quindi sa bene di the cosa music parla. Business. Ma secondo lei è rispettoso, quindi, verso i fan fare questa cosa? Ma i fan sono coloro che alimentano tutta questa cosa, poi. Quindi più o meno consapevoli. Un po' forse, vabbè. Ma è rispettoso verso la musica tutto questo? Esatto, verso il fan. Vabbè, io sono sempre più o meno irrispettoso, soprattutto quando affronto certi argomenti senza avere poi tutte le documentazioni che altri che gestiscono altre rubriche vogliono avere, se no non ne parlano. Io semplicemente riporto dal mio vissuto, e quindi il solito vissuto musicale punk, la storia triste dei Blink 182. No, non è vero, vabbè, non è una storia triste. Quello che voglio dire è che i Blink 182 sono un esempio di divorzio. divorzio che presenta le sue peculiarità che mi hanno fatto semplicemente sorridere e pensare un po' alle mie vicissitudini, alle vicissitudini un po' di tutti i gruppi. Fondamentalmente la formazione, diciamo i padri fondatori dei Blink 182 sono, mi puoi aiutare tu Silvano? Uno ma, è Travis Barker, ha detto quello che già sapevano perché tutti. Il batterista è quello talentuoso dei tre, diciamolo senza problemi. Allora sono Tom DeLonge e Mark Hoppus, i due che non ricordavo, ma che sono i due su cui volevo speculare, perché sono un po' le due voci dei Blink 182. Allora, se voi avete presente un po' chi sono, diciamo Tom De, scusate, Mark Hoppus è quello, diciamo, con la voce un po' più calda, un po' più My Nightmare, è quella parte un po' più perfetto. Allora, abbiamo capito, cioè premesso che Blink 182 hanno con quest'album qui raggiunto un po' la maturità, prima facevano più così punk rock un po' più anonimo, con quest'album incredibile hanno cominciato a fare queste robe, a cantare un po' più tutte e due, quindi usciva più fuori Mark Hoppus, quando bene o male tutti invece ci ricordavamo i Blink 182 per quell'altra voce, la voce un po' più antipatica, un po' più il Noel Gallagher della situazione. Where are you? I'm so sorry. Cioè, questo accento del Tennessee piacevolissimo. Che appunto si sono divisi e quindi hanno fatto i loro. Cioè, non si sono divisi proprio mandando tutto all'aria con i Blink 182 perché erano già una multinazionale al loro successo, ma hanno detto facciamo un po' di vita nei nostri progetti cosiddetti paralleli. Allora, da una parte ci stava per esempio il progetto che vedeva alla voce Mark Hoppus e che sono i Plus 44. E sentiamo appunto il calore della voce di Mark Hoppus. E poi invece ci stavano i progetti paralleli, che poi risalivano anche a prima, che vedevano alla voce l'antipaticone, diciamo. Facendola breve. Lo riconoscete? Il Tennessee. Quello del Tennessee. Wish I could feel no pain. Wish I was young. Ok, cosa volevo dire? Fondamentalmente che hanno vissuto questa cosa della possibilità di reunion, mi sono andato a leggere un po' di roba di queste cose che si scrivono i fans fra di loro o che si scrivono loro tramite i social e quindi che fanno pensare ai fan che si stanno per riunire, che stanno per fare l'eventone, però fondamentalmente non c'è. Quelli che poi ne sanno di più dicono che non si rimetteranno mai insieme perché hanno proprio sbroccato fra di loro. La cosa che li accomuna però è di volere sempre stare con Travis Barker. Travis Barker è il batterista, una pippa, cioè uno che prende una... E quindi cioè, per quello pure mi facevano ridere, perché poi ci stavano i scazzi fra i gruppi, però c'era sempre quello bravo che tutti lo volevano in squadra. E Travis Barker quindi si è trovato un po' a vivere in tutti i progetti paralleli dei Blink 182 e a dargli insomma anche il suo bel contributo. Ma fondamentalmente adesso chiudiamo dicendo che con questo pezzo qui, che si chiama No It Isn't, io, cioè... Quando ogni volta che lo sento penso non si metteranno mai insieme. Questo è un pezzo che dice, si chiama No It Isn't, che significa no, non è quello. Perché tutti gli hanno detto, ma che è il pezzo sullo scioglimento osso? E no, non è quello. E dice, non solo che è goodbye, è proprio che non ti sopporto più. Su Radio Forte, No It Isn't. A thousand faces will choose to ignore. Curse my enemies forever. Let's slit our wrists and burn down something beautiful. This desperation leaves me overjoyed. With fading lights that lead us past the lives that we destroy. Cry. tides are tied, and I'm pushed into the deep end. I listen to you talk, but talk is cheap, and my mouth is filled with mud from trying not to speak. So search for an excuse and someone to believe you, and foreign dressing rooms I'm empty with the need to curse my enemies forever. Let's hit our wrists and burn down something beautiful. This desperation leaves me overjoyed with fading lights that lead us past the lives that we destroy. Ascoltando Radio Forte, e questo a Centocelle Avengers. Questa trasmissione è un patchwork di musica passata, presente e futura, tutta orbitante attorno ai progetti del Forte. Dalla scuola di musica a performance live, passando per un po' di sana follia che non guasta, mai. Centocelle Avengers, la musica si difende. E siamo quasi in chiusura, ovviamente si è risfasciato tutto, qui non funziona più niente, invece sì, funziona. E siamo quasi in chiusura, ma ci avete pensato che questa è l'ultima puntata prima del saggio? Cioè, oh quando, mio Dio, quando... no! No, non volevo... Ma perché quest'ansia? Era per dire che alla prossima ci ritroveremo con la, capito, le analisi della sconfitta, le diagnosi, cioè magari delle registrazioni a caldo. I morti e i feriti. Cioè, ricordiamo che il conduttore è anche il nostro maestro, Non è vero. Ma è ricordiamo vero. Che il primo saggio, sì. Il saggio si svolgerà? Si svolgerà giovedì 1 luglio nella piazza d'armi sinistra di Forte Prenestino, nell'Arena Grande, sul palco grande. Sul palcone. Oh. Sul palco grande. Ed è ansia grande. Palco calcato da innumerevoli artisti. Sì. Vuoi citarne qualcuno? Internazionale. In tribunale? No, adesso mi piacerebbe ricordare la banda Bardò, a dire la verità, anche viste le note vicende tristi che... no. Chi ha calcato quel palco? Chi ha calcato quel palco? L'anno era il 2017-2018, non ricordo precisamente, ma è stato un concertone da paura. Un grande Enotica, ricordiamo, che tornerà anche Enotica. Grazie per questa perla, Gabri, che ci ha tolto, già un po' tolto il fiato sul finale. Comunque stiamo per bucare, quindi il tempo soltanto di dirvi che questa meravigliosa puntata sarà probabilmente in podcast, non durerà mai più 2 ore, perché non lo so. Ma cioè, perché? È stato bellissimo. Va bene, allora rifacciamola da 2 ore. Va bene, allora ce lo diciamo, patto di sangue, evviva! No, non lo so. Allora, i problemi tecnici spuntano fuori dopo l'ora, quindi decidiamo in base a questo, praticamente. Vabbè, però danno quel tocco, quella cosa, capito? Real life, sì. Facciamo ballottaggio. Io direi di lanciare la sigla. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Però con un po' di ansia. No, perché? Perché la sigla parte. È successo di nuovo. Cioè, ma perché? Stiamo per bucare. C'è stata la trasmissione dopo. Abbiamo sforato 9 secondi.